fratelli, anche quando uno sia sorpreso a commettere una colpa, voi che siete guidati dallo Spirito, correggete costui con spirito di mitezza. E tu abbi cura di te stesso, perché non abbia a soccombere tu pure nella tentazione. Portate vicendevolmente i vostri pesi, così compirete la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece il suo operato, e allora troverà soltanto in se stesso motivo di vanto e non nell'altro. Ciascuno infatti dovrà portare il proprio fardello. Colui che viene istruito nella parola partecipi i suoi beni a quello che lo istruisce. Non vi ingannate. Dio non permette che ci si prenda gioco di lui. L'uomo mieterà ciò che avrà seminato. Chi semina seguendo la carne, dalla carne mieterà rovina. Chi invece semina seguendo lo spirito, dallo spirito mieterà la vita eterna. Facendo il bene, non lasciamoci prendere da noia o stanchezza. A tempo debito mieteremo, se non allenteremo il nostro impegno. Perciò, finché ne abbiamo l'occasione propizia, pratichiamo il bene verso tutti, ma soprattutto verso coloro che appartengono alla nostra stessa famiglia della fede. Notate con che grossi caratteri vi scrivo di mia mano. Quanti vogliono far bella figura seguendo la carne, questi cercano di costringervi a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti, nemmeno coloro che si fanno circoncidere osservano personalmente la legge, ma vogliono che voi vi circoncidiate al solo scopo di avere un vanto sulla vostra debolezza. A me non avvenga mai di menar vanto se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo. Infatti, né la circoncisione né la mancanza di essa sono alcunché, ma la nuova creazione. E quanti seguiranno questa regola, pace e misericordia su di loro e sull'Israele di Dio. Del resto, nessuno mi infastidisca. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito, fratelli. Amen.